Buonasera e benvenuti a Notte Tempo 7 Minutes. Anche questa settimana le pillole di musica indipendente si fondono e si confondono con la poesia. Il brano che state ascoltando è Black Love di Easton Ellis. Io sono Olivia Napolitano e questa è Radio Libriamoci Web. Siamo ancora sulla scia del Festival della Poesia di Strada che si è tenuta a Genova a metà maggio, in una incursione poetica che ha visto protagoniste le saracinesche dei vicoli del centro. Poeti provenienti da tutta Italia le hanno ricoperte con versi di poesia. Ascoltiamo la testimonianza di Guido di Assalto Poetico Lecce. Mi chiamo Guido, sono stato tirato in mezzo a Poesia d'Assalto da Davide una mattina, una delle poche in cui dormivo fino alle 10, mi chiama dicendo vieni in piazza Mazzini perché ti devi inginocchiare e scrivere col gesso. Così abbiamo fatto e poi ho iniziato ad appassionarmi a tutto, mi ha trascinato a scrivere sulle saracinesche, ad appendere manifesti ai muri e la passione è aumentata fino a venire qui a Genova anche con la gamba sfasciata. La poesia è uno dei mezzi di espressione che prediligo insieme alla musica. È una cosa che ho sempre fatto, anzi prima la poesia e poi la musica, anche se poi la musica mi ha preso di più. Mi ha accompagnato da quando ero piccolo, adesso trovo il modo di esprimermi liberamente e di dare emozioni a qualcun altro e possono anche essere diverse da quelle che provavo io quando ho scritto quella poesia. Ora è fango. L'abbiamo scritta davanti a una delle chiese di Lecce, una delle più particolari, la chiesa di San Matteo. È l'unica pianta circolare delle 99 chiese di Lecce. Ora è fango. Sale e scende come una campana e poi si involge e si svolge come le spire di un serpente attorno al collo e ritorna come un treno in corsa, si stende di nuovo come un pugile sfinito, curva su curva, curva dopo curva, hai perso la via e sei crollato in terra e quella terra la calpesti e mai la miri, negli occhi di chi passa, nelle gambe di chi resta, nelle viscere di un albero scuoiato c'è quell'oro dentro al fango che gli è nato e lì ci resta. Ricordo che potete ascoltare Notte Tempo 7 Minutes tutte le settimane alle 18 e alle 23 ogni sabato e domenica oppure in podcast sul blog www.nottetempoblog.wordpress.com. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alla prossima puntata. You're the one I'm addicted to. live without you. You're the one I'm addicted to. You're the one I'm addicted to.